L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati. In questa prima parte della trasmissione parliamo di un interessante accordo per un'agricoltura più sostenibile che nasce dall'integrazione di tradizione e ricerca che verrà sperimentato da due colossi italiani, ovvero da Barilla e Copro B, il principale produttore di zucchero in Italia con il marchio Italia Zuccheri. Nella seconda parte della trasmissione invece parleremo di clima e cambiamenti climatici e anche di una proposta che ci sentiamo in larga misura di condividere, ovvero quella della costituzione di un organismo sovranazionale per l'ambiente che abbia soldi e potere di intervento in situazioni estreme come quella delle emissioni di gas serra o di disastri come Fukushima ad esempio, insomma un ONU dell'ambiente. Ma veniamo innanzitutto all'intesa tra Barilla e Copro B. Dicevamo un'intesa fondata su tradizione e innovazione. La tradizione qui è quella della rotazione in agricoltura che, come studiavamo sui libri di scuola, migliora la fertilità del terreno. La ricerca scientifica è invece quella introdotta nel sistema della rotazione da Orta, che è uno spin-off, una società nata nell'ambito della facoltà di agraria dell'Università Cattolica di Piacenza. Cerchiamo innanzitutto di capire quali sono i termini di questa intesa con Leonardo Mirone, che è direttore acquisti materie prime di Barilla. Questo accordo di quest'anno impedisce un progetto che si chiama filiera integrata di Barilla, che serve a promuovere collaborazioni tipo orizzontali con le principali filiere del sistema agroalimentare italiano. Per poter stimolare una produzione di grano duro di qualità, quello che noi abbiamo pensato è quello di stimolare anche delle produzioni di altre materie prime che siano sia di qualità sia con dei criteri di sostenibilità più avanzati. Integrare delle filiere tra di loro come grano duro e barbabietola serve a creare un sistema produttivo per l'agricoltore che sia più efficiente e più rispettoso dell'ambiente. Senta, la interrompo solo perché lei ha detto poco fa accordo orizzontale. Che cosa vuol dire un accordo orizzontale tra le filiere? Un accordo orizzontale è un accordo di tipo diverso rispetto a quelli del passato in cui, ad esempio, Barilla si impegnava a comprare grano duro di qualità facendo un accordo con le regioni, con cooperative di produttori, con organizzazioni di produttori per cercare di fare una filiera sempre più moderna, con sempre risultati più efficienti. Invece ha introdotto, sempre in verticale, quindi partendo da noi e andando fino all'agricoltore, abbiamo introdotto un criterio orizzontale, cioè degli altri partner che sono sulla stessa nostra linea lungo la filiera, quindi che comprano dei prodotti dell'agricoltura, che hanno gli stessi nostri interessi, come ad esempio Copro B, di migliorare la filiera. Quindi l'agricoltore si trova ad avere davanti due operatori, due suoi clienti, uno che compra barbabietola e uno che compra grano duro, che sono quindi tra di loro orizzontali e che si presentano all'agricoltore con gli stessi criteri, facilitando la vita all'agricoltore. Ho capito, quindi l'agricoltore ha due interlocutori precisi e di anno in anno, poi a seconda appunto delle produzioni, sa con chi trattare, insomma. Esattamente, può già programmare in anticipo il suo ciclo di rotazione, sapendo che un anno potrà vendere a me, l'anno dopo potrà vendere a Copro B o viceversa. Quindi può già immaginarsi il suo ciclo di rotazione in anticipo, non deve ogni anno andarsi a cercare il suo cliente a cui andare a vendere il prodotto della sua rotazione, può già programmarsi sapendo a chi dopo andrà a vendere, a consegnare il suo prodotto del suo campo. Mirone, lì accanto a lei c'è il suo collega Luca Ruini, che è direttore sicurezza e ambiente sempre del gruppo Barilla. Vorrei chiedergli che vantaggio ha per Barilla la rotazione. Ma la rotazione è importante perché che cosa succede se prima si coltiva una varietà che nutre il terreno e poi successivamente, come può essere la barbabietola da zucchero in questo caso che serve, e successivamente invece coltiviamo il grano duro che invece assorbe dei nutrienti dal terreno, in questo modo c'è minore necessità di aggiungere fertilizzanti. Una volta, quando non esistevano i fertilizzanti, o si facevano le rotazioni o dopo un po' di tempo il terreno non riusciva più a produrre perché veniva consumati tutti i nutrienti che erano lì presenti. E quindi in qualche maniera si cerca di recuperare quello che era un modo tradizionale, antico, efficiente di riuscire a produrre nel miglior modo possibile. Quindi in pratica si riscopre che forse nell'antico si faceva meglio che adesso, però con le competenze di oggi. Esattamente, infatti da una parte quindi si riscopre il vecchio modo di coltivare, quindi utilizzando le rotazioni, ma dando degli strumenti moderni agli agricoltori, in particolare con degli strumenti sul web che consentono di indicare all'agricoltore quando utilizzare i fertilizzanti in funzione delle condizioni climatiche, se piove o non piove, e in funzione anche di quando, di che cosa si è coltivato, si sta coltivando e di qual è la qualità del terreno. Dunque, una curiosità che forse è più per Mirone, è questa intesa che è stata siglata adesso, che tipo di durata ha, anche possibilità di, non saprei come dire, fabbisogno, copre della produzione Barilla? Ad oggi è un accordo che non ha nessuna durata, quindi abbiamo siglato un mutuo riconoscimento delle pratiche di sostenibilità e l'agricoltore ha accesso prioritario ai contratti se segue le pratiche di sostenibilità. Ha un potenziale teorico di circa 3.000 ettari, perché Barilla compra circa 20.000 tonnellate di zucchero in Italia che equivalgono circa 3.000 ettari, quindi diverse centinaia di agricoltori nel territorio dell'Emilia Romagna e del Basso Veneto principalmente. Quindi per l'Italia sarebbe una copertura totale, diciamo, una copertura della richiesta totale dello zucchero che Barilla acquista in Italia. Sì, assolutamente. Il primo anno ovviamente avremo qualche decina di agricoltori che faranno un po' da testimonial, da sperimentatori. Noi andremo presso il club della bietola di Copro B, parleremo di quello che facciamo noi, di quello che fanno loro e cercheremo l'integrazione completa. L'obiettivo è quello di arrivare al completo fabbisogno dello zucchero che Barilla compra oggi in Italia. Quindi però, visto che Barilla poi dopo ha una, come si dice, un'estensione internazionale, questo modello, se funzionante, potrebbe essere replicato comunque. Questo è assolutamente un modello che speriamo sia replicabile, anche perché si inserisce in un nuovo concetto di politica agricola comune in cui le rotazioni sono molto importanti, quindi stiamo cercando di partire in anticipo per offrire agli agricoltori degli strumenti che già li mettono avanti per i possibili requisiti del greening della politica agricola europea che arriveranno anno dopo anno in maniera sempre più stringente. Quindi è un modello che sicuramente anche in altri paesi europei è applicabile. Ringraziamo i nostri ospiti, ricordo entrambi del gruppo Barilla, Leonardo Mirone che è direttore acquisti materie prime e Luca Ruini che è direttore sicurezza e ambiente del gruppo. Tra pochissimo, dopo la viabilità, quindi nella seconda parte, parliamo di cambiamenti climatici e cerchiamo di capire se siamo a un passo dal baratro. L'altro pianeta. Eccoci qui dunque. Allora, venerdì scorso sono filtrate delle indiscrezioni importanti e inquietanti sul rapporto che l'IPCC sta preparando per la prossima primavera. Il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, che ricordiamo lavora su mandato delle Nazioni Unite, avrebbe infatti riscontrato dati molto preoccupanti. Un aumento del 2,2% l'anno in media per la decade 2000-2010, scrive la BBC. Un incremento pericolosissimo per il quale non esistono rimedi, ma azioni di mitigazione e adeguamento al massimo. Allora, in Italia studia e lavora uno di questi scienziati dell'IPCC, ricordiamo premiati col premio Nobel della Pace qualche anno fa. È Riccardo Valentini, che è docente dell'Università della Tuscia, coordinatore dal Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici del gruppo che lavora sui dati europei. Ovviamente Valentini non vuole e non può confermare i numeri, sono secretati fino alla presentazione del rapporto, ma conferma l'andamento preoccupante delle emissioni di CO2. Effettivamente la traiettoria che abbiamo preso sulle emissioni di combustibili fossili è in questo momento la peggiore, diciamo, che prevista, che è quella che potrebbe portarci anche a un riscaldamento globale potenziale di 4 gradi centigradi o superiore attualmente, diciamo, senza quindi misure di mitigazione. E comunque avremo sicuramente un riscaldamento globale residuale che è diciamo, ormai acclarato. Anche se ci mettiamo a fare i compiti, insomma. Anche se ci mettiamo a fare i compiti all'ultimo minuto, facciamo gli esami nell'ultimo anno dell'università, uguale, non, diciamo, avremo comunque oltrepassato la soglia della reversibilità, quindi vuol dire che ci sarà comunque il centro. Ora la domanda, il rapporto si pone la questione quanto potrebbe essere questo riscaldamento residuale e come noi ci adattiamo, questa è la domanda fondamentale, quindi la questione dell'adattamento, non so se dai i due termini, no? Mitigazione e la riduzione delle emissioni. L'adattamento invece è come noi diciamo ci resistiamo o ci mettiamo in sicurezza rispetto ai cambiamenti che sono previsti. Quindi questa questione dell'adattamento diventa preponderante oggi, cioè politiche nazionali e internazionali ovviamente devono porre la questione anche dell'adattamento, cioè cosa noi oggi possiamo fare per e quanto ci costa poi soprattutto metterci in sicurezza. Quindi questo, diciamo, il rapporto, adesso senza entrare appunto nei dettagli, perché verrà poi esplicitato ovviamente in questo senso, c'è un embargo, però insomma grosso modo si pone questo tema generale, e parte da una considerazione che siamo su uno scenario indubbiamente molto pericoloso, questo posso dirlo, non posso dire oltre, insomma. No, certo, certo. Ma che impatto potrebbe avere un eventuale taglio delle emissioni europee del 40% entro il 2030? Ha un'efficacia perché rappresenta un imperativo, diciamo, come dire, morale, un imperativo corretto per un'Europa che è comunque in questo momento una regione, un insieme di paesi che dell'ambiente ha fatto, diciamo, una bandiera politica globale. Siamo riconosciuti nel mondo per essere, diciamo, la potenza più ambientalista, diciamo, no, del mondo. Però se lei mi dice qual sarà l'impatto di questo sul pianeta, diciamo, in senso più ampio, direi che i risultati saranno pochi, perché l'Europa già oggi, diciamo, ha fatto molto sulla riduzione delle emissioni. Insomma, il punto vero è che cosa faranno gli stati emergenti, cioè la Cina, Brasile, India e gli Stati Uniti, cioè quello è il punto vero di snodo di queste politiche, diciamo, sul clima. Non è tanto l'Europa che può da sola, noi abbiamo uno share che è dell'ordine del 13-15% delle emissioni globali, cioè quindi una cifra molto piccola rispetto a quello che è tutto il resto. Però forse per misure, diciamo, ci vorrebbe una specie di un'organizzazione mondiale dell'ambiente, quasi con poteri sovranazionali, per poter portare avanti un progetto così grande. Sì, è vero, guardi, in teoria abbiamo le Nazioni Unite, no? Il processo di queste conferenze sul clima, diciamo, il processo di Kyoto, eccetera, un problema di Kyoto è avvenuto all'interno delle Nazioni Unite. Oggi c'è effettivamente una discussione, e l'organismo, diciamo, preposto è questo. La domanda è: sta funzionando? Funziona? Qualche dubbio ce l'abbiamo oggi come oggi, perché ormai sono passati parecchi anni. Abbiamo prodotto il protocollo di Kyoto, che però, diciamo, è stato praticamente un accordo di bandiera, ma non ha prodotto di fatto purtroppo, sì, i risultati sul piano globale. Questo nuovo accordo che dovrebbe partire, diciamo, nel 2020, quindi con un accordo che deciso nel 2000, che dovrebbe essere deciso nel 2015, cioè noi ci troviamo a un anno dalla decisione dell'accordo globale sulla riduzione delle emissioni, ed è molto lontano ancora dal punto di vista politico. Sì, no, ma io stavo pensando anche a una situazione al di là delle oltre le emissioni, non so, Fukushima, una situazione così, un organismo che possa intervenire forse piacerebbe, no? Possono ormai esistere, sì, delle emergenze mondiali nelle quali, sì, al momento, sì, l'ONU non può entrare, non c'ha gli strumenti, sì, per farlo. Sì, questo è vero. Non abbiamo gli strumenti, da questo punto di vista concordo con lei, non c'è uno strumento decisivo, uno strumento emergenziale, uno strumento, diciamo, che può intervenire in modo sovranazionale, una specie di protezione civile del mondo, diciamo. Sì, sì, esattamente. Però siccome ormai il mondo ha emergenze mondiali, ci servirebbe. Sarebbe il caso di avere una protezione civile del mondo. E questo era Riccardo Valentini, coordinatore dal Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, del gruppo che lavora sui dati europei che poi entreranno a far parte del prossimo rapporto dell'IPCC che sarà pubblicato in primavera. Non gli abbiamo posto a caso la domanda su una organizzazione mondiale per l'ambiente, quella che lui poi ha definito una protezione civile mondiale. E l'idea l'avevamo trovata qualche giorno fa in un commento di una ricercatrice del Centro Studi sul Federalismo di Torino, quindi tutt'altro ambito rispetto a quello dei cambiamenti climatici. Lei si chiama Olimpia Fontana e questa è la sua idea. Lei ben presenta, insomma, ben sottolinea in questo commento che in questo contesto, dove appunto ci si rimbalza la palla di volta in volta e si manda tutto avanti di anno in anno, l'Unione Europea è quella che, diciamo, si dà degli obiettivi più stringenti, che fondamentalmente alza l'asticella di volta in volta e via via raggiunge, chi più chi meno dei paesi dell'Unione, comunque raggiunge questi obiettivi. Però, insomma, l'Europa è una goccia rispetto al mondo, specialmente in questo campo. Beh, l'Unione Europea forse oggi è l'unico attore sulla scena che può portare avanti un progetto realistico di contenimento delle emissioni. Già si è mossa in questo senso con la strategia Europa 2020, che ha come obiettivo, tra i tanti, quello di ridurre appunto le emissioni di gas serra del 20%, obiettivo che già è stato raggiunto e si sta andando oltre. E quindi l'Unione Europea può fornire il modello per gli altri paesi di sviluppo alternativo di crescita, in senso appunto ecologicamente sostenibile, e può portare avanti anche un processo graduale verso un nuovo assetto. Quello che in sostanza è la proposta poi del nostro centro studi sul federalismo. È una proposta che io, come dice, apprezzo molto e che mi sembra che sia una via da percorrere, per quello che ci tenevo appunto che lei la presentasse all'interno di questa trasmissione. La proposta è avanzata dal centro studi sul federalismo, ma è condivisa anche da altre organizzazioni, tra cui in Italia Lega Ambiente e il Movimento Federalista Europeo, ma ce ne sono molte altre a livello internazionale. Questa proposta sostanzialmente si basa su due punti. Il primo è che ci deve essere un accordo universale sul clima che sia il più possibile vincolante, però questo accordo deve rispettare un fondamentale principio di criterio di giustizia tra i paesi. Cioè il calcolo delle riduzioni delle emissioni non deve avvenire sulla base delle emissioni totali, come avviene oggi, ma deve avvenire su un calcolo di emissioni pro capite. Cioè in questo modo si va ad agevolare la situazione dei paesi in via di sviluppo che hanno sì delle emissioni totali alte rispetto ai paesi industrializzati, ma hanno un calcolo di emissioni pro capite, quindi per persona, ancora molto basso. Il secondo punto della nostra proposta è che questo accordo non può rimanere nelle mani di trattati internazionali, come è il protocollo di Kyoto, ma deve essere affidato ad un livello superiore, cioè ad una organizzazione mondiale dell'ambiente, che deve essere autonoma, con poteri sovranazionali e soprattutto deve disporre di risorse proprie, finanziate attraverso ad esempio tasse ecologiche, come la carbon tax, che tra l'altro avrebbe l'effetto di scoraggiare l'uso dei combustibili fossili nella produzione di energia. Quindi in sostanza la nostra proposta dice innanzitutto calcolo sulla base delle emissioni pro capite e non totali e istituzione di un'organizzazione mondiale dell'ambiente. E questa posizione è anche quella che viene appoggiata da tutte le varie ONG ambientali che poi partecipano alle conferenze sul clima dell'ONU. Visto che il tempo corre e siamo quasi al termine, mi piacerebbe sapere perché lei che lavora e studia per il Centro Studi sul Federalismo si è applicata a questo tema. Perché il tema, diciamo, dello sviluppo economico, io sono ricercatrice in campo economico, si lega assolutamente al tema ambientale. Pensiamo ad esempio di recente i Millennium Development Goals, non sono più solamente obiettivi di sviluppo economico e sociale, ormai sono stati, diciamo, sostituiti da dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, cioè lo sviluppo è anche un fattore ambientale, perché il cambiamento climatico è parte integrante dello sviluppo, perché gli effetti causati dal cambiamento climatico, pensiamo alle recenti alluvioni, ai tifoni, contribuiscono ad aumentare la povertà e la vulnerabilità dei paesi. E questi sono temi che il tema ambientale, il tema appunto del sviluppo dei paesi in via di sviluppo, da sempre stanno comunque a cuore anche al Movimento Federalista Europeo. Grazie anche a Olimpia Fontana per la gentilezza e la disponibilità. Vi ricordo l'appuntamento con L'Altro Pianeta la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.